Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. I figli omosessuali hanno innanzitutto problemi di disturbi del comportamento, un disturbo della di relazione, problemi di socializzazione. Spesso e volentieri hanno subito abusi sessuali sin dalla tenera infanzia dai genitori, pratica che tendono purtroppo a ripetere. È medicina, non sono chiacchiere e psicologie. Perché esiste allora l'omosessualità? Ma questa è un po' una devianza, diciamo, l'omosessualità, se vogliamo dirla, della persona. Sono problemi psichici, secondo me. Come andrebbero curati? Ma tanto avrebbero senz'altro capiti e con amore, mai giudicati. Questo nessuno di noi vuole, ovvio. Ci mancherebbe giudicare una poraccia debolezza che c'è. Scelta loro, ma non ci devono imporre una cosa del genere però a noi. Diventare esatto, noi omosessuali. Esatto, bravo. Questa no. La confusione è in agguato. Lei ha amici omosessuali? Vediamo, uno o due sì, e ci vado molto d'accordo, perché comunque sono persone da rispettare. L'omosessualità invece è un errore, come ha definito Papa Francesco, della mente umana. In che modo lei sostiene gli amici omosessuali? Questo non era Checco Zalone, era un giovane al Family Day l'altro giorno. Queste sono interviste prese da Luca Lavarone per fanpage.it. Lo riprese perché è stato quello che ha dato veramente un senso pluriale di quello che è accaduto su quella bella collina romana. Io ci sono andato, devo dire, ma ho resistito un'ora. È una mia debolezza, non ce l'ho fatta. Mi sembrava di essere entrato in una sorta di incubo, ma anche bello, forse se uno vuole. Se uno lo immagina come un museo antropologico di reperti umani degli anni 50, è anche interessante, ma è un museo. E questo visto e questo si sentiva. E mi è venuto da pensare che in realtà alla base di tutto c'era una profonda, radicale, viscerale paura del sesso. Ma anche i preti ballerini, anche le suore scatenate, anche i bravi ragazzi e le brave ragazze, anche i signori e le signore portati con i torpedoni, con i pullman, con le caviglie stanche perché sono messe le scarpe della festa, lì arrampicati sulle colline ad aspettare che scendesse con una sorta di epifania ad Inolfi e o scendesse anche l'organizzatore per dire che il sesso serve solo per la riproduzione, guai se fosse cosa di piacere. Cosa mi è venuto di riflettere? Mi è venuto improvvisamente, ma la fulminazione l'ho avuta ieri sera in prima serata su Rai 3 quando attendevo una trasmissione che avrebbe dato finalmente onore al servizio pubblico raccontando di quello che è il grosso problema dell'educazione sessuale nelle scuole. L'abbiamo parlato lungamente, la teoria del gender, la paura e indicare ai ragazzi una via di rispetto e una via di non sopraffazione, non di idolatria del più forte, del più prepotente, mi sembrava una cosa giusta. Finalmente, dico, il MIUR fa qualcosa di sensato, insegna ai ragazzi che non bisogna prendersi con gli altri semplicemente perché hanno un'apparenza che non incarna il vincitore per eccellenza. E vedevo l'imbarazzo di Fabio Fazio, la litizzetta, dopo aver palleggiato Lino Banfi, dovevano tenere, fare ammuina. Perché? Perché questa trasmissione era stata spostata per rispetto dei bambini. E poi è iniziata la trasmissione. È iniziata, ma secondo la scaletta, che doveva iniziare subito a far parlare i reportage che avrebbero raccontato ai ragazzi, che è molto interessante capire che accade nelle loro scuole, quali sono i problemi, quali sono i motivi della sopraffazione, perché è così importante parlarne di sesso. Beh, anche quello è stato spostato. Ha fatto un interessantissimo reportage sull'acqua che però doveva andare in seconda serata. E cosa ho pensato? Ho pensato che non è cambiato nulla dall'anno 1966. Ragazzi di un importante liceo milanese, il Parini, del loro giornalino liceale, La Zanzara, fecero un'inchiesta in cui veniva stabilito se fosse lecito sia ai ragazzi che alle ragazze avere rapporti prematrimoniali. Le riprese un quotidiano e successe un casino. Furono arrestati, portati in questura, furono spogliati e perquisiti come voleva allora la legge. Non so cosa hanno fatto, quale introspezione. E iniziò un processo. Questi ragazzi avevano osato parlare di sesso. Ci furono interrogazioni parlamentari, furono processati, ne parlò tutta Italia. E da loro, solo nel 66, fu dichiarato che era lecito comunque parlare di sesso. Si poteva parlare di sesso, di educazione sessuale in senso pedagogico. Eppure ieri qualcuno nel servizio pubblico ha avuto paura. Ha pensato bene che parlare di sesso in un orario in cui i ragazzi potevano stare davanti al televisore non era il caso, sì, perché alle 10:30 gli adolescenti, si sa, vanno a letto. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Omar vive a Milano, ha 18 anni e la sua vita è già stata segnata da violenze, bullismo e omofobia. Un giorno ero uscito da scuola, no? Si avvicina questo qui di terza, no? Ero in prima. Si avvicina e tipo mi spinge, no? Ha iniziato a prendermi a calci, ha iniziato a sputarmi, a insultarmi, a spingermi. Con tutta la scuola dietro che se la rideva. Cosa ti dicevano? Vecchione di merda, devi morire, sei la vergogna del nostro paese. Poi mi minacciavano di tagliarmi la gola. Prendevano le mie foto, le pubblicavano sui social, mi prendevano in giro, tutte queste cose, no? Stavo zitto e piangevo, non ne parlavo con nessuna. Con nessuna. Gianluca, grazie a YouTube, YouPorn, Instagram, eccetera, gli italiani di nuova generazione proveranno nausea del sesso. Questo mi dice Giacomo, ha scritto anche 10 volte lo stesso sms. Sì, ne avranno tanta nausea, ma è tanto vero che ancora faccia tanto paura parlarne con serenità. Non è la prima volta che tocchiamo l'argomento di un'educazione al controllo dei propri istinti più negativi, più primordiali, più vessatori nei confronti di altre persone, e ancora una volta dobbiamo riparlare di sesso. Il ragazzo che avete sentito è stato un ragazzo vittima feroce di atti di bullismo. Atti bullismo che rasentano la violenza, che entrano proprio nella sfera della violenza fisica vera e propria, della sopraffazione sessuale vera e propria. Ecco, questo è quello che potrebbe far male ai ragazzi se lo ascoltano. Devono capire cosa succede nelle loro scuole. Io, per capire meglio cosa c'è dietro questa trasmissione, perché è stata una trasmissione, quella che abbiamo poi finalmente visto, presa diretta su Rai 3, condotta da Riccardo Iacona, che era dettagliatissima, documentatissima. Devo dire che per la prima volta un argomento così scabroso è toccato in maniera così capillare. Ripeto quello che ho detto qualche settimana fa, quando parlai dei vaccini, quando parlai dei venditori di illusione per l'autismo, e oggi devo ridire la stessa cosa, e me devo dirla sempre alla stessa persona. Riccardo Iacona, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Lo svelo, io e Riccardo ci conosciamo penso da 20 anni. Infatti è un piacere. Siamo stati anche colleghi, figuriamoci, lui era agli albori, quindi sono stato molto contento che stamattina è venuto qui in studio da noi. Gli ho detto: Riccardo, vieni alla nostra radio a raccontare esattamente la difficoltà di mettere insieme questo servizio, un servizio capillare, un servizio che dice tutto, un servizio che spiega senza mezzi termini, un servizio illuminante, un servizio che le scuole dovrebbero trasmettere come materiale didattico. Quanto ci hai messo innanzitutto per questo? È un lavoro lungo. Fammi dire intanto che comunque la RAI l'ha mandato in onda, questa è una gran cosa, e ne parliamo oggi anche grazie a questo, che sono convinto che i ragazzi l'hanno visto tutti, anche fino alle 11:30 di sera, perché nessuno va più a letto alle 9 di sera. Bravo. E che io faccio la parte dello stronzo, fa la parte di quello, giustamente. Ci abbiamo messo? Quanto ci mettiamo in genere? Cioè un mese di riprese, un mese di montaggio? Ecco, ci lavori. Diciamo, sono un po' anni. Soprattutto questa è un'idea che va al seguito delle tante altre trasmissioni che abbiamo fatto sull'argomento. Io mi ricordo quella sugli utilizzatori finali, proprio dove mettevamo al centro questa... Ne parlammo qui, ti ricordi? Sì, questo fatto che diciamo ormai il Kama Sutra dei ragazzi è il porno, no? E quindi, e che non c'è altra agenzia. Anche lì eravamo stupiti del fatto che all'indomani, per esempio, dell'episodio delle cosiddette Baby Squillo, al Giulio Cesare, che è una delle scuole coinvolte, non avesse voluto fare neanche un dibattito. Questi ragazzi vengono lasciati come completamente soli. Allora abbiamo pensato, ma siccome nel resto del mondo invece ci hanno pensato, e ci hanno pensato da 20-30 anni, e noi siamo gli unici che ogni volta che si parla di uno straccio di educazione sessuale o all'affettività o sentimentale nelle scuole si alza il casino più totale, e all'indomani... Poi parte un allone leggendario, delle leggende incredibili. Ecco, ma perché questa è una storia di parole, per questo tu ne parli bene, che le parole le sai usare, no? Perché qui le parole servono per nascondere, no? Perché gender, oddio, che sta succedendo, no? Questi adesso nelle classi gli facciamo fare pratica sessuale, scambi di ruolo, femmine che diventano maschi, scuola di masturbazione, ma lo so, ne abbiamo parlato anche questa trasmissione. Gender significa genere, e qui in Italia sul genere c'è un problema grande come questo paese, di impari opportunità, ed è questo che fa paura, no? Poi diciamo che, siccome all'indomani in quel piccolo comma della buona scuola, vituperata legge, della quale sono tre righe e ancora devono fare le linee guida come succede da noi, no? Ieri però è stato interessante, ci hanno mandato dal MIUR un tweet dicendo: guarda, stiamo facendo le linee guida, andiamo avanti serenamente. Bene, benissimo, però su quelle tre righe è scoppiato l'inferno, al punto che ti ricordi che la Giannina a un certo punto ha detto: io vi denuncio. L'ha detto qui da noi. Ah, bravo. Era mio ospite. Sì, non ce la faceva più, perché io la chiamai quella mattina. Giannini, eravamo circondati da persone con iniziano a mandare email terroristiche attraverso catene di Sant'Antonio telefoniche di madri dicendo attenzione, non mandate i vostri figli, firmate tutti. Quasi che la paura fosse che mandavi un bambino a scuola, ciao Riccardo vai a scuola, e tornava con le treccine che era una donna. Questa era la vera paura. Bravo. E voglio aggiungerti una cosa, l'esempio olandese è molto interessante, perché sai qual è l'agenzia che organizza l'educazione sessuale e sentimentale? È fondata dal Ministero della Sanità. Cioè noi ci immaginiamo, ma lì che c'è un talk divertente con una specie di personaggio, Corey Show, è una cosa divertentissima, c'è una dottoressa sotto in chiave comica che è diventata un speriamo personaggio. Speriamo che qualcuno, siccome noi stiamo sempre prendendo se i format, che se lo compri anche, allora, avrebbe un grande fermo successo. Fermo un attimo 800 24 00 24, avete capito l'argomento, vogliamo sapere quanto realmente vi fa paura, quanto pensate che fare una sera concreta laica educazione sessuale nelle scuole possa rovinare la coscienza dei vostri bambini. Raffaella, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, Gianluca, la seguo sempre. E io ieri sera sono rimasta scandalizzata dalla messa in onda in ritardo programmata dalla RAI sull'argomento. Grande stima per il giornalista di Presa Diretta, e ho seguito la trasmissione con mia figlia che ha 15 anni e mezzo. E niente, noi non troviamo nulla. L'ha vista molto traumatizzata la bambina, vero? No, assolutamente, cioè noi ci siamo scandalizzate dal fatto che la gente ci si scandalizzi, è una questione incredibile. Ma non so, magari ancora pensano che sia Marcellino Panevino dall'altra parte, il pubblico in prima fila. Comunque sua figlia ha apprezzato, cos'è che le è sembrato più vicino all'esperienza di sua figlia rispetto a quello che ha visto? Ma guardi, per noi è talmente, o che siamo forse una famiglia un po' atipica, un po' anomala, ma per noi è talmente scontato anche la questione, la questione di due genitori dello stesso sesso, eccetera. Sì, ma adesso non complichiamola, andiamo, sennò sembra che vogliamo sempre metterci tutto. No, semplicemente che i ragazzi sappiano che uno dei primi motivi di sofferenza per i loro coetanei, una percentuale altissima. Quanti sono i bullizzati in Italia? Beh, ma sono qualcosa come il 19%, ecco, 20%. Il 20%. No, 50% ha avuto esperienze. Comunque un'esperienza. Quindi uno su due comunque in un momento della sua vita scolastica ha un atto di profonda sopraffazione. Ecco, questa avviene sempre, la materia scatenante è sempre la discriminazione sessuale. C'è sempre qualcosa, o non è abbastanza adeguato al ruolo di maschio o di femmina, perché ci sono anche le bulle femminili, o comunque sia viene accusato di essere tutto quello che può essere di più detestabile in una mentalità di tipo maschilista. Quindi per lei l'ha trovato positivo. Sentiamo Marco. Marco, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. No, io non ho visto il programma, però volevo intervenire sul fatto che su questo fatto, nel senso che non c'è dubbio che nella scuola ci siano grosse pecche, ma non solo sull'educazione sessuale, che secondo me dovrebbe di questi tempi avere maggiore attenzione sicuramente. Senza dubbio ci debba essere nella vita comunque pari opportunità. Però la mia idea è questa sull'omosessualità. Sono persone, secondo me... Insomma, adesso che c'entra, scusi, che c'entra le spalle? Il suo parere sugli omosessuali può essere interessante, ma è fuori luogo in questo momento, non mi interessa. Cosa ne pensa lei? Okay. No, non lo sa, perché no, perché è indifferente. Io devo solo sapere se lei trova giusto che venga insegnata ai ragazzi nelle scuole. Ti dà del suo parere? No, assolutamente sì, ma è ovvio che nell'educazione sessuale di questi tempi per forza, assolutamente sì, sono d'accordo. Poi se lei vuol dirmi che ha tanti amici omosessuali, ma non è questo, il tema centrale non è solo l'omosessualità, è in generale spiegare ai ragazzi, non sanno nemmeno come è fatto un uomo, come è fatta una donna, o perlomeno sanno come quello che vedono su YouPorn, ma poi in realtà è un po' diversa la realtà. Il problema è che adesso vengono ubriacati dalla tecnologia, quindi ovviamente è tutto preso molto in modo frivolo. Vabbè, ho capito, grazie, a presto. C'è anche chi pensa che le donne dovrebbero esercitarsi nell'arte della sottomissione. Costanza Miriano è una giornalista di Rai Vaticano e ha scritto un libro che ha venduto decine di migliaia di copie in Italia e in Europa, intitolato Sposati e sii sottomessa. Il titolo è preso da una lettera di San Paolo agli Efesini. La sottomissione a cui faccio riferimento io è la rinuncia alla volontà femminile di manipolare, di controllare, di formattare le persone, cioè riacquistare uno sguardo leale nei confronti dell'uomo, cioè di riconoscergli quello che sa fare, di mettersi sotto perché lui sia veramente uomo. Nel suo libro lei scrive: la mia risposta a qualsiasi problema femminile è: ha ragione lui, sposalo, fate un figlio, obbediscili, fate un altro figlio. Io racconto quello che per me ha funzionato e quindi credo che sia difficile contestare un'esperienza personale, visto ecco, il numero di... Parliamo di sottomissione femminile. Non a caso Costanza Miriane, una delle anime del Family Day, una signora che nel pieno rispetto delle sue idee ha scritto libri su quanto sia bello essere sottomessa. Ma va anche molto il genere, perché anche le sfumature di grigio è esattamente lo stesso sistema. Ognuno sceglie la sua via di sottomissione. Ma sembra logico che sia questa l'alternativa in un mondo moderno, in una civiltà che si sta svolgendo in tutt'altra maniera, che ancora dovrebbe dare il là nelle nostre scuole? Ma assolutamente no, ma quello che leggiamo noi è che questo conflitto, in realtà dietro c'è sempre la questione femminile, no? Mano a mano che le donne conquistano spazio, potere, capacità economica e quindi leadership, è lì che si esercita questa resistenza. Sono tanti gli esempi che noi vediamo, diciamo, a cominciare dalla violenza endemica di cui le donne italiane sono oggetto, ma anche l'immagine che della donna ancora viaggia nei media a tutte le ore, voglio dire, no? Questo bisogno spropositato che abbiamo noi del corpo delle donne, no? Una volta, quando ero ragazzo io, a una donna si fischiava, no? O si faceva il colpo di clacson. Oggi ci siamo foderati, diciamo, il mondo di pezzi di corpi delle donne, quasi a segnalare questa mancanza di possesso, no? Di dominio, che dobbiamo, diciamo, dare per scontato che prima o poi non ci sarà più. Però questa è la battaglia culturale e politica che c'è anche dietro la resistenza a introdurre l'educazione sessuale e sentimentale, perché l'educazione sessuale e sentimentale insegna già alle materne in Olanda che i bambini e le bambine sono uguali. E questo è ancora lo scandalo, che una donna può fare l'astronauta, no? Ieri Adino Alfi ci ha detto: no, è scientificamente provato che ci sono dei ruoli per gli uomini. No, infatti, se tu vai alla facoltà di ingegneria, questa mattina lo verranno a cercare, dice, nella facoltà di ingegneria sono più uomini. Dove l'ha letto, no? Dove sta questa roba qui? No? Non lo so. Vabbè. Però insomma, è interessante aver sentito parlare ieri sera a Presa Diretta lungamente anche le persone. Io, per esempio, ho trovato strepitosa l'intervista che ha fatto Giulia Bosetti a quel papà di Trieste che ha tolto la figlia perché c'era il gioco del rispetto, il figlio, no? Adesso sì. Adesso che ha detto non informare, ma la scuola non deve educare, deve formare, no? E su questo, secondo me, c'è altra la cosa battaglia. Prima di dare la linea all'informazione della borsa, sto notando dall'indicatore che ho degli SMS che mi arrivano che parlare di educazione sessuale oggi viene frainteso come una sorta di proclamazione della supremazia dell'omosessualità. Tutti parlano di questo, non so perché. Il fatto che oggi si parli mamma molto mamma mia quanto fanno paura si parli molto di omosessualità, improvvisamente non si può più parlare di sesso. Parlare di sesso, ragazzi, significa infrocirli praticamente. L'ho tradotto in maniera molto concreta, ma è questo la vera paura oggi nell'integralismo italiano, che non ha mai avuto una forma così abietta. Ma io sono vissuto negli anni 50, non era così. Mia madre era molto più avanti delle signore Whistle Family Day, mia nonna era molto più avanti di Costanza Miriano, ma anni luce avanti, donna nata nel 1900. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Il 66% delle ragazze italiane fra i 20 e i 30 anni ritiene normale che una donna provi dolore durante i rapporti sessuali. Il 56% non ha un'idea chiara dell'anatomia femminile, l'11% crede che non si possa rimanere incinte durante le mestruazioni e il donne italiane. Sì. E il 4% addirittura che un bagno caldo sia un valido contraccettivo. E poi c'è un'altra indagine dell'Eurisco, no? Sì, questa del Jeff Capo. Questa ci ha impressionato molto in redazione. Dice che il 45% delle donne italiane tra i 18 e i 45 anni non usa i contraccettivi e che soltanto il 15% usa il preservativo, con il risultato che dopo il 2005 l'aumento dei contagi di malattie sessualmente trasmissibili è aumentato del 31%. Beh, ecco, basterebbero solo questi dati per fare quello che fanno negli altri paesi. Dare questi dati non è l'internazionale che vorrebbe... omosessualizzare tutta l'umanità, ma è un sondaggio dell'Associazione Ginecologia e Ostetricia, più un sondaggio RISCO, trasmessi e commentati ieri nella trasmissione presa diretta di Riccardo Iacona. Riccardo Iacono, ricordo, è qui in studio con me, sento tre telefonate, poi torniamo a parlare con lui delle difficoltà che ci sono di parlare serenamente di sesso, parlarne in televisione, parlarne comunque agli italiani che ancora hanno grosse paure di parlarne in maniera leggera, leggiadra, senza necessariamente dover ricorrere all'ideologia. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, salve. Niente, io volevo portare un racconto di un istruttore di sub che lavorava all'estero e praticamente... E, diciamo che una ragazzina di 16 anni nord europea gli faceva il filo e praticamente in modo esplicito un giorno gli fece capire che voleva avere un rapporto con lui. Quindi lui diciamo che scappò in casa e dopo una mezz'oretta, un'oretta arrivò la madre di questa ragazzina nord europea e gli chiedeva che cosa non aveva la figlia, che cosa non andava bene in lei. Cioè voleva applicare la legge della maniglia, prima la madre poi la figlia, qual era il problema? No, la madre era molto più preoccupata che la figlia non avesse questa esperienza con questo ragazzo. Ciò la scandalizza? A me? No, perché no. Abbiamo ragazzine di 13 anni si prostituiscono con avvocati e personaggi della Roma. No, forse ho fatto confusione. No, per dire sono più liberi. 16 anni, se consapevole, la madre sta bene, non lo so come la legge. Però sono più liberi, ma i dati dicono che cominciano a fare l'amore molto più tardi che i nostri ragazzini, che lo fanno in maniera inconsapevole a 13 a 14 anni. In Olanda, dopo 10 anni di educazione sessuale e sentimentale, dai 14 anni sono passati a 17 anni e hanno diminuito tutte le gravidanze indesiderate, nonché le malattie trasmissibili sessualmente. Quindi questo mondo del nord dove tutti trombano a destra e a sinistra, diciamo, non c'è. È molto interessante che in un paese più sessualmente libero del nostro abbiano sentito il bisogno di fare un'agenzia educativa nelle scuole, a cominciare dalle materne. Ugo, buongiorno. Buongiorno. Insegnante, 58 anni, insegnante di scienze e matematica nella scuola media inferiore di una comunità montana, la Gran Comben. Io da 20 anni che facciamo educazione sessuale con il sessionato La Sanità, che ci fornisce le ostetriche che entrano direttamente in classe. Ma perché siete una regione autonoma per questo? Perché mi sembra proprio di stare al Medioevo, fuori da Carema, cioè dal Piemonte. Questo... Ah, beh, allora non si sente bene autonoma. È incredibile. Quindi avviene già, voi da 30 anni fate educazione, nessuna madre protesta, nessuno vi chiede come mai... No, gli unici problemi che abbiamo, io personalmente, gli unici problemi che ho avuto sono stati dei testimoni di Geova, che negavano assolutamente la partecipazione dei loro figli. I testimoni di Geova negano sempre, se vede il servizio delle Iene, l'ultima settimana c'è stato un caso di stupro nei confronti di un ragazzo da parte di un loro anziano e il tema delle Iene era che giravano per questi testimoni di Geova, non saranno assolutamente tutti così, ma in quella comunità c'era un'omertà bestiale non parlare di questo fatto. Quindi evidentemente non parlarne a qualunque costo, non parlarne anche quando ciò rappresenta un reato. Daniele, buongiorno. Daniele. Buongiorno, sì. buongiorno. Sono onorato di parlare con lei e con Iacona, queste due giornaliste eccezionali, per me i migliori in Italia. Vabbè, detto questo... Fatto questo, voglio dire, la mia esperienza nel mondo scolastico italiano con l'educazione sessuale è pessima, perché ai miei tempi, io ho 40 anni, ai miei tempi non mi hanno spiegato nulla, ho fatto da autodidatta. Con i miei figli vedo che non c'è nessun tentativo di spiegare loro nell'orario scolastico nulla, e quindi mi ritrovo io a dover fare da front office, in questo caso con i miei figli, cercando di fare non delle lezioni di educazione sessuale, perché non ne sarei capace, ma di parlare con loro liberamente di questioni anche... i miei figli hanno 12 e 9 anni. Beh, guardi, già il fatto che se ne parli in famiglia è molto... Diciamo che i rudimenti avendoli generati li saprà lei, basta documentarsi, cioè c'è una manualistica molto fatta bene che spiega anche i problemi tecnici, la fisiologia, la prevenzione, diciamo l'aspetto più tecnicamente legato alla contemporaneità. Ma oggi l'importante è, questo è il tema più della trasmissione, è fare sì che la mancanza di cultura all'affettività, alla sessualità diventi un'arma letale nei confronti dei figli. Anna Maria, Anna Maria, buongiorno. Anna Maria è caduta. Allora, Riccardo Iacona, torniamo a noi. Una sventagliata sul interessante pubblico. Interessante l'ultima, questa, sì. Perché tutti noi siamo fa padri. Da solo, e fa da solo, certo. E facciamo ma da meglio. Soli, no? Meglio da un certo punto di vista, ma c'è un aspetto che i ragazzi non ci racconteranno mai, no? E io sono convinto che con questa, diciamo, pornografizzazione delle relazioni sentimentali che c'è fra i ragazzi, per esempio i ragazzi e le ragazzine sono sottoposte a pressioni terribili per mantenere quelle performance e quell'idea di relazione sessuale. Dove ne parlano? La scuola chiude le porte. In famiglia lo sappiamo perché ce lo dicono i sondaggi, non si parla, è diventato un tabù. Noi immaginiamo, certo i ragazzi sanno come si fa tecnicamente l'amore perché accedono alla pornografia con gli smartphone dai 9 anni in su. Il problema è che se succede qualcosa, a chi lo dico? E sono questi spazi, diciamo, che vengono costruiti nelle scuole dove si fa l'educazione sentimentale, dove tu c'hai la persona esperta alla quale gli puoi dire: senti, a me il ragazzo mi ha chiesto questa cosa, io non la voglio fare. Come gli devo rispondere? Dov'è questo spazio in cui, per esempio, le due ragazzine che si sono prostituite a Roma potevano a un certo punto alzare le mani e dire: guardate, a me mi stanno infilando in un giro, sì, sono stata fessa a accettare quel giro lì, ma adesso mi stanno martorizzando, no? Sono dovuti intervenire i carabinieri perché una delle due madri ha fatto una denuncia, altrimenti quelle stavano ancora a prostituirsi e la scuola non se n'è accorta, non c'è un'agenzia che se ne accorge, nei consultori i ragazzi non vanno più. Si consultano via internet se hanno problemi di gravidanze indesiderate o di malattie sessualmente trasmettibili. Le loro madri vanno su forum femminile quando hanno dei problemi in famiglia. Purtroppo la rete, che è uno strumento fantastico e meraviglioso, sai quanto io l'abbia cavalcata da secoli, ma sembra ti dia delle risposte, in realtà non sono sempre risposte che vanno bene per tutti. Ma questo, non è personalizzata. A questo serve l'educazione bene organizzata. Ecco perché io sono un fan di quel piccolo comma che ha scatenato l'inferno della buona scuola. Magari ci sono cose di cui in famiglia non si parla, che a scuola sarebbe molto utile invece parlarne, magari per vergogna, non lo so. Cioè a casa tua non se ne parla tanto, no? Zero, cioè un tabù. Il fatto che ora girino tantissimo i video sui social, piuttosto che anche a tema, no? Sessuale. Video sì, foto e più. Ti è capitato di scambiarti foto? Mie no. Che me l'hanno mandato sì. Le ragazze che te l'hanno mandato nude proprio? Nude. Sono persone che a 13 anni poi mandano foto nude. Mandano già le foto nude. Sì, a 13 anni. Anche che cioè, fanno sesso a 13 anni lo sanno. Lui aveva una cartella di 400 foto. Sul telefonino? Anche alcune volte i video di ragazzi che toccavano, non so, non lo so. Si toccavano, sì. Quindi diciamo di masturbazione, eccetera. E che la fanno e la mandano a qualcuno che conoscono? All'amico, magari poi un amico fa l'infame, quindi lo passano. Il senso è questo, le madri tremeranno, cadranno dalle nuvole, che le ragazzine di 13 anni facciano foto di loro attività autoerotiche e le scambino come una volta si scambiavano i cuoricini, i bigliettini d'amore, perché probabilmente non conoscono altro linguaggio. E poi vengono usati come strumenti di vessazione. Questo, c'è un archivio di 400 foto e video di ragazzine che fanno atti sessuali davanti al telefonino. Magari l'hanno mandate pensando che fosse l'unica maniera per dimostrare affezione e amore. E poi diventa la lama della loro bigliettina. Certo, un oggetto di ricatto. Ma è un modo di relazionarsi che hanno i ragazzi, utilizzano il sesso per fare relazione sociale, non perché sono dei piccoli baby pornostar, tutti i nostri figli, ma lo è stato anche per noi la scoperta del nostro corpo e del corpo degli altri come educazione alla relazione, no? Sì, tu sei classe 54. 57, sei più giovane di me, ecco, io ho qualche anno più di te, ma era una difficoltà, si combatteva col macete nella giungla, capito? Ci siamo fatti le ossa con difficoltà estreme. E qui hanno il piatto pronto, e forse probabilmente questo, è pronto ma servito male. Senza rendersi conto che si mettono in difficoltà talmente terribili col fatto che i social possono amplificare questa tua debolezza. Una volta se tu facevi una cavolata ce la giocavamo tra amici, sì, no? Adesso lo sa tutta la scuola, cioè. Carolina Picchio ha avuto 2700 commenti su quella pagina che poi l'ha portata al suicidio, di magari anche adulti, no? Certamente non tutti della scuola. Spiego la storia, una ragazza che gli è stata ubriacata durante una festa. Gli hanno fatto un video a sfondo sessuale. Gli ha fatto un video a sfondo sessuale, l'hanno messo in rete e continuano, dopo che lei si è suicidata, hanno continuato a commentarli. E l'amica che hanno intervistato te è stata costretta a farsi intervistare a viso coperto, perché i bulli potrebbero colpire ancora anche certo, lei. Certo, perché lei era l'unica che l'aveva difesa. E stiamo parlando dell'attualità, una cosa andata non da ieri sera, non nell'anno 1956. Tra un attimo. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. Io mi domando, a chi fa paura che si possa dire in una scuola a una bambina puoi essere quello che vuoi e andrà bene? A chi fa paura questa cosa semplice? Tutto è eticamente sensibile. Se in una famiglia il padre è convinto che i neri siano inferiori, cosa vuol dire? Che siccome per lui è un tema sensibile, la scuola non deve insegnare che il razzismo è reato e distrugge il tessuto sociale? Stiamo parlando di discriminazione. Il maschilismo, così come il razzismo, così come l'antisemitismo, così come l'omofobia, sono la negazione di un principio proprio basico. Gli omosessuali. Questa è Michela Murgia, un'amica scanzonata di tanti anni fa, oggi è diventata una serissima scrittrice, esprime concetti con grande chiarezza. Mi scrive un ascoltatore: Nicoletti, se lei è intellettualmente onesto nel giudizio sul Family Day, allora deve invitare in trasmissione Gandolfini e confrontarsi con lui, dando possibilità di contraddittorio. Mica ce la par condicio. Io esprimo qui il mio parere e do il senso del mio punto di vista, che può essere parziale, anzi deve essere parziale. Sentiamo qualche ascoltatore e poi passo con Riccardo Iacona. Cioè, questa idea che il giornalista deve essere una sorta di semaforo che dà libero passaggio a tutte le una persona che dice che il sesso deve essessere usato solo per la procreazione, non per il piacere, non so che altri argomenti possa avere di conversazione. Anna Maria. Buongiorno, io siccome ho 71 anni e ai tempi quando i miei figli andavano a scuola l'educazione sessuale era uno scandalo, ho ritenuto bene di fargliela io in famiglia e per aiutarmi comprai un libro, Come nascono i bambini. E dove l'aveva comprato? Non me lo ricordo, passavo tanto tempo in libreria e mi ricordo che venivano gli amici dei miei figli a casa e vedevano, guardavano con una curiosità morbosa questo libro e un giorno stavano tutti lì, l'ho preso e praticamente gli ho fatto una lezione, nel senso gli ho spiegato le cose che stavano scritte nel libro, che non erano assolutamente scandalose, però credo che questi ne avranno parlato in famiglia, le madri mi hanno un po' guardato strana, pensavano chissà che. Io ai miei figli gli ho sempre insegnato che in piedi siamo tutti uguali, non c'è differenza, siamo esseri umani e il sesso è una cosa bella che va usata con intelligenza. Vedi Anna Maria, quando io dico che ci sono persone di vecchia generazione che sono molto più aperte rispetto a certi giovani integralisti, non lo dico vero. A caso, lei ha 70 anni, non si è posta nessun problema probabilmente. No. Va bene, grazie. Fernando. Fernando. Sì. Dottore Creti, buongiorno. Sì. Io sono del 18 febbraio del 40 e condivido totalmente che a scuola bisognerebbe fare lezione di educazione sessuale. Le mie figlie sono state allevate con grande apertura mentale, senza esagerare, però noi quando andavamo in doccia avevamo le porte aperte e l'aria poteva entrare, fare domande, chiedere differenze sia a me che a mia moglie. Io questo non l'ho mai fatto a caso, ognuno poi ha i suoi sistemi. Ecco, poi, per me il ciondolone del papà è meglio che se ne stia da parte, però ognuno la pensa come bene, vuole. In realtà, a poco, dopo una certa età, ha scoperto la riservatezza e anche noi non eravamo, ripeto... Quindi alla fine che è successo? Le sue figlie che hanno fatto? Le mie figlie hanno allevato, altri figli. Una sola, hanno allevato le mie nipoti con totale apertura mentale, a parte il fatto che poi Ilaria ha sposato un americano e l'apertura mentale loro è più ampia della nostra. Vabbè, oggi siamo tutti aperti, sono felici. Le mie nipoti sono perfettamente, sanno tutto. Voglio fermola. Perfetto, una famiglia felice, no, perché modelli di felicità, più di tanto è inutile parlarne se non ci sono nessun problemi. Simona, vediamo se Simona c'è qualche altro problema, riusciamo sì, a dare l'idea, perché sennò sembra che stiamo sondando solo la parte felice, ci siamo inventati tutto. Allora, lei... Sì, buongiorno, volevo dare la mia esperienza che è stata quella di bambina che ha fatto le scuole sia elementari che medie dalle suore. E suore progressiste a questo punto, perché in quinta elementare ricordo perfettamente che avevano chiamato una consulente esterna a spiegarci, a farci proprio una lezione di educazione sessuale. E che giustamente ne sa più di loro, questa è logica. Esatto. In teoria. E lì ho avuto il mio, cioè la verità, cioè, mentre fino al giorno prima pensavo che i bambini nascessero solo dal bacio di del papà e della mamma, quel giorno lì mi si è, diciamo così... Che anni erano? Solo per curiosità, che anni erano? Era il 79, avevo 9 anni. Ferma lì. Riccardo Iacono, vedi, non sono selezionati, noi scegliamo sempre un campione di ascoltatori in base ai flussi. Oggi avremmo rappresentato volentieri, qualcuno diceva che facciamo parte di un grande complotto, ma non so perché hanno preferito non intervenire oggi. Però mi viene da pensare e confermare quello che ho già detto. Viviamo in un momento veramente terribile. Perché è sempre esistito, giustamente, una diffusa e anche comprensibile pudicizia, reticenza, sessofobia, ma era diversamente, c'erano delle eccezioni. Questa negli anni 70, le suore, comunque esistevano delle suore che chiamavano educazione, un insegnante educazione sessuale. Un padre di 70 anni e una madre di 70 anni comunque compra un libro e fa vedere ai figli. Quindi non è proprio vero che siamo un paese così vecchio. O in questo momento viene soltanto una nuova forma di conservatorismo così ottuso, così poco leggero, che non è rappresentato poi dal signore. Senti, io non la voglio buttare in politica, no, però politica anch'io no. No, ma invece la butterò nel senso che anch'io ho visto ieri il flusso dei tweet che ci sono arrivati, che erano sostanzialmente tutti, diciamo, interessati e positivi all'idea che si introducesse. Dove sono questi? Vorrei che fosse, diciamo, l'alibi attraverso il quale una parte politica di questo paese si sta costruendo una sua identità che magari ha perso, e quindi questo adesso diventa un cavallo di battaglia politica che ha poco a che fare, diciamo, con l'oggetto di quello di cui stiamo parlando io e te adesso. Ma sai, perché mentre mi ero depresso sabato, dico, se l'Italia è questa è meglio che scappo, oggi mi si riapre il cuore, lo vedi, nonostante tutto, con tutti i limiti. Il tempo è passato giustamente, non è esattamente così. Beh, così come sono tante le aziende, l'abbiamo fatto vedere nella puntata precedente, anche voi ne avete parlato, sono tantissime le aziende italiane che già applicano le unioni civili, per dire, no, adesso non voglio tornare sul dibattito. Anche un'impresa di pompe funebri ha fatto una pubblicità, dice, a noi non ci interessa, chi viene mettiamo tutti sottoterra alla stessa maniera. È vero. Sì. L'ha fatto l'IKEA, l'ha fatto la Coop, la DHL, l'acqua minerale, anche un sugo, Alma Viva, tutti. È vero. Sì, però quella è una paraculata, capiscono che si apre una nuova fetta di mercato, però se si apre il mercato vuol dire che il mondo è cambiato, quindi non è vero che il mondo non è cambiato. Ma che... l'Italia come sempre sta molto più avanti. L'Italia sta più avanti di quello che sembra dagli indicatori. Vediamo Alessandro. Sì, salve. Buongiorno a tutti. Ecco, io volevo introdurre un argomento semplice, però viene sempre banalizzato. Cioè, si parla sempre di sesso, educazione sessuale. Ma perché non si fa educazione all'amore? È perché poi quando la gente si innamora deve far sesso comunque. Quando la gente si innamora. No, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Sono le possibili, Alessandro, io ho 61 anni, io sull'amore ancora non so nulla. Nessuno mi ha insegnato. Ma forse lei non ha mai studiato. E dove si studia l'amore? Non ha mai usato l'amore. Ha studiato sesso, ma non. Ma si usa l'amore? Io di solito ci si è usati dall'amore, penso. Se l'amore non ti prende, non ti rapisce. C'è molta confusione. Ma dove si studia l'amore? Scusi. Il sesso. Il sesso è mercificazione anche della persona. Perché mercificazione? No, scusi. Perché non insegnare nelle scuole anche l'amore prima? E poi arriva. Ma come si fa a insegnare? Mi faccio una lezione d'amore in un minuto. Ma come fa a fare lezione d'amore? Quello che trasmette il cuore. Se lo trasmette il cuore non lo insegna nessuno. Allora, cioè, l'amore prova. Sì, ma l'amore è niente confronto all'amore. Ma no, il sesso da gusto, l'amore fa male a volte. No, scusi. Vabbè, lei sta andando per ideologia, lei sta dicendo, scusi, l'amore non si insegna, l'amore si impara sulla propria esperienza, a volte molto dolorosa, a volte molto faticosa, a volte si insegue tutta la vita, a volte si ha l'illusione di averlo trovato, a volte si pensa che l'amore sia infinito poi finisce, a volte l'amore dura oltre quello che noi pensiamo, e questa è una cosa meravigliosa, è un senso irrazionale. Il sesso è una tecnica. Il sesso significa mettere un affare dentro un'altra cosa per lo metterlo bene, e soprattutto farlo soltanto quando l'altra persona può essere consenziente, o te lo chiede o è d'accordo nel farlo. Questa è la base. Richiede alcuni strumenti tecnici e fisiologici di conoscenza. Perché dice che è mercificazione? Cosa c'è di mercificazione in questo? Sara. Buongiorno, complimenti per le sue trasmissioni. Volevo dire che io ho 43 anni. E quando ne avevo 17, per cui non si parla di un'epoca paleozoica, sì. A 17 anni avevo un ragazzo di 19 con il quale avevamo deciso un inizio di intimità, decisi per mio conto di andare dal medico e di farmi dare la pillola anticoncezionale, in quanto a 17 anni non volevo assolutamente rischiare una gravidanza. Mia mamma l'ha scoperto. E non le dico, una tragedia, una figlia, una poco di buono, cioè anziché magari... Sì, poi questo è classico, succede. Quindi il risultato qual è di tutto questo? Ne è stata traumatizzata? No. No, no, non sono stata traumatizzata. Ha continuato, continuato a prenderlo. A volte, ancora adesso, l'ho trovato giusto, nel senso avrei ritenuto che una mamma forse apprezzasse che la figlia di 17 anni si fosse munita quello che gli... Qua io penso tante mamme contemporanee ancora che hanno figlie cinquantenni non ammettono che le figlie, se sono single, abbiano rapporti sessuali. Grazie Riccardo, c'è una battuta? Beh, insomma, lunga vita all'amore da una parte, no? Così si chiama il progetto per le scuole superiori in Olanda di educazione sessuale e sentimentale. Sì, che nessuna paura di sesso e amore. Amore, si però insegnano il sesso. Anche. L'amore secondo me non si insegna, si impara dolorosamente. Grazie a tutti, arrivederci.